Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Intervento del TAR riaccende lo scontro tra regioni e governo. Se da una parte il Tribunale Amministrativo dà l'ok al Piemonte per la misurazione a scuola della febbre, dall'altra blocca la Sardegna che voleva imporre test obbligatori per chi entra nell'isola. Quindi, dopo giorni di discussioni politiche con vista regionali e referendum, è il Covid a riprendersi la scena qua da noi, ma anche in Gran Bretagna, dove scatta il lockdown in alcune zone per oltre 2 milioni di persone, e in Francia, dove si superano i 10.000 contagi al giorno. Si discute intanto del reddito di cittadinanza assegnato ai fratelli bianchi, alle famiglie dei fratelli bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. E si fa un gran parlare, soprattutto sui social, sui social, con toni indignati, del film di Enrico Vanzina in arrivo il 15 ottobre, Lockdown all'italiana, con tanto di locandina con Ezio Greggio in mutande. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti, è venerdì 18 settembre, ci siamo di nuovo. Vi aspetto al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Si può ridere delle tragedie a così breve distanza? Ci si indigna per questa locandina e per questo film in arrivo il 15 ottobre. È un po' troppo? Un po' troppo ravvicinato? Ditemi che ne pensate. Invece vi dico, facendovi ascoltare innanzitutto una voce, cosa mi pare di tutta la vicenda dei fratelli bianchi e del reddito di cittadinanza. È un'opinione come le altre, per carità, però intanto sentiamo Luigi Di Maio, va. E quindi io dico sempre, condanno questa cosa, massimi controlli, è inaccettabile, però vedo sempre delle campagne diffamatorie sul reddito di cittadinanza, del tipo che bisogna abolire il reddito perché alcuni ne abusano. Però con questo ragionamento dovremmo andare ad abolire tutti gli strumenti assistenziali italiani che aiutano le persone, perché la pensione di invalidità, gli assegni familiari, c'è chi ne abusa. Invece io dico, aumentiamo i controlli, però non trattiamo quelli che prendono il reddito di cittadinanza come dei criminali. Devo dire la verità, si possono muovere tutte le critiche che si vogliono al reddito di cittadinanza, a partire dal fatto che l'altra gamba, quella più importante, quella della ricollocazione, quella delle politiche attive del lavoro, quelle che si sarebbero dovute fare, quelle politiche attive con i navigator, non funziona quasi per nulla. Si può criticare il metodo di distribuzione, si può dire che è una misura assistenziale, però ha anche ragione Di Maio a dire, allora su questa base critichiamo tutto, perché la sottodichiarazione è un male italiano. Ora io non voglio accendere risse sotto scuola, però sappiate che se avete figli da asilo nido, probabilmente nel vostro stesso asilo nido ci sono bambini che hanno genitori che sottodichiarano abbondantemente e o pagano la quota più bassa o non la pagano per nulla. E allora è gente che sottrae risorse, sottrae spazi, toglie qualcosa a chi ne ha bisogno, tanto quanto i fratelli bianchi o tanto quanto i mafiosi che prendono il reddito di cittadinanza e ne sono uscite di storie. Qua è una questione di carenza di controlli. Poi, tutte le critiche al reddito di cittadinanza che volete, quelle si possono fare. E visto che si parlava dei fratelli bianchi, ieri c'è stato questo intervento della cantante, di Emma Marrone, sul clima che si respira, prendendo ad esempio quella vicenda e la vicenda della quale lungamente abbiamo parlato di Caivano, del fratello sospettato di aver ucciso la sorella perché aveva la relazione con un trans. Purtroppo stiamo patendo un momento di proprio subcultura italiana, secondo me a 360 gradi abbiamo degli esempi pessimi, la discriminazione razziale, l'omofobia, tutte le forme di razzismo e di violenza purtroppo sono causate da una forma di ignoranza che sta avvenendo a galla. Ed eccoci, caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, come stai Francesco? Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di 24 mattina. In una mattinata nella quale non ho degnamente salutato la squadra, ancora Peter Bescapei, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, sempre in redazione, Margherita Ine e Francesco Ceraffo, i nostri autori. Scusate ragazzi e buon venerdì a tutti, buon venerdì, domani non ci si sveglia alle 4. Allora, caro Francesco, mi sembra che, come dicevo prima, il Covid si sia un po' ripreso la scena e soprattutto i TAR si siano ripresi la scena in questa ultima giornata di campagna elettorale. Che dici? Il Covid si è ripreso la scena. A quello che dici tu aggiungo il record di casi in Germania, oltre 2000, e forse il dato più preoccupante di tutti, che è quello relativo alle terapie intensive, soprattutto in Francia, e alla crescita dei decessi abbastanza marcata in Spagna. Noi dicevamo questa è una fase diversa, questa volta i contagi crescono perché li stiamo cercando, questa volta qualcuno dice il Covid ha perso di intensità e si citava anche il fatto che fosse diminuita l'età media dei contagiati, ecco l'età media si sta alzando, le terapie intensive stanno un po' riempiendo, in Italia siamo al 10% in alcune regioni come ad esempio la Sardegna, in Spagna e in Francia cominciano a riempirsi i posti letto e cominciano a crescere i decessi, quindi stiamo sempre molto attenti. Relativamente ai TAR, parliamo di endemici mali italiani, e la certezza del diritto, diciamo, quella è sempre una chimera, TAR o non TAR, e sì. Covid o non Covid. Sì, ci siamo, quindi il TAR che dà ragione al Piemonte, tra l'altro, tra un attimo ci torneremo sul tema dei bambini e della scuola, perché c'è una enorme confusione sul tema dei certificati medici. Che cosa devo fare se mio figlio si prende un raffreddore e non lo mando a scuola? Cosa devo fare? Devo fare il tampone per essere sicuro? Devo fare un certificato medico? Non lo devo fare? Certo, la legge dice che non lo devo fare, alcune regioni lo prevedono. Come potete comprendere è un discreto problema per tutti i genitori. Ne parleremo tra un attimo perché anche i medici di base sono un po' perplessi su questo. Ultimo giorno prima del voto, nel quale si può parlare di elezioni e referendum, una campagna complessivamente, Francesco, un po' sottotono mi sembra, no? Non particolarmente accesa, non particolarmente vivace, ne abbiamo parlato spesso anche da qua, alla fine nessuno ha un vero interesse a caricare questo voto di particolare valenza politica? Sinceramente non ce l'ha il governo, ma ripetiamo sempre una cosa, c'è abbastanza un'anomalia da questo punto di vista, perché abbiamo una maggioranza di governo, quella formata da Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico e Sinistra, LeU, che in molte delle regioni in cui si vota non si presenta nemmeno assieme, quindi mentre l'opposizione si presenta più o meno dappertutto assieme. E che il governo non voglia fare l'errore di caricare di valore politico queste elezioni, visti i sondaggi, è abbastanza fisiologico. Conte se ne è tenuto molto fuori, evitando di ripetere, diciamo, l'errore umbro che fece con Zingaretti e Di Maio di dare una valenza strutturale politica all'alleanza PD 5 Stelle. La sensazione che abbiamo, ovviamente, data dai sondaggi di due settimane fa, è che comunque ci si aspetti una crescita del centrodestra e un arretramento della coalizione di governo. La cosa curiosa è che nemmeno Salvini, nemmeno il centrodestra sta caricando di valenza politica questa situazione. La sensazione è in generale che si vinca o che si perda, la maggioranza non subirà grossi scossoni, che tutto più o meno è rimarrà com'è, e quindi nessuno vuole forzare la mano. Chiaro che una maggioranza che dovesse perdere in modo molto pesante queste elezioni, e qui le regioni chiave le conosciamo, sono Toscana, sì, e Puglia, evidentemente avrebbe qualche ripercussione a livello politico, difficile governare quando tutte le regioni tranne una o due sono dell'opposizione. Sì, sì. Soprattutto mi sembra problemi interni alle coalizioni, se non ai singoli partiti, che problemi in generale sul governo. Però vedremo come andranno le cose. Sì. A proposito dei regionali, ieri c'è stato ancora il tema dei... Allora, non so come sia dal punto di vista... dal punto di vista amministrativo, come siano i tempi e come siano organizzati i tempi, però io rimango sempre un po' stupito quando arriva la lista degli impresentabili un giorno e mezzo, due giorni prima del voto. Comunque sentiamo Nicola Morra, il presidente della Commissione Antimafia. Tutte le forze politiche che democraticamente concorrono alla vita democratica del Paese dovrebbero avere la maturità loro stesse di depennare eventuali soggetti semplicemente opinabili. Sì, e questo è più il ruolo politico, sono 13 cosiddetti impresentabili, questo è più il ruolo politico dei partiti, quello che sottolinea Morra. Però e ogni partito sceglie chi è opinabile oppure no, cioè non c'è un criterio preciso naturalmente. Però rimane il fatto che la lista degli impresentabili che arriva a due giorni dal voto è sempre una cosa curiosa. A proposito, allora, questo sicuramente non è un impresentabile, o meglio, non lo è dal punto di vista dei criteri della Commissione Antimafia. Certo, questa telefonata registrata ad un candidato leghista fermo, del quale non faremo il nome perché... sentite qua, va. Me la fastidio nessuno, modestia a parte, perché l'elettorato mio è inavvicinabile, capisci? Non è che io te lo va a pigliare. Me, io ho il 50% rumeni, domani sera sono invitato a cena agli ivoriani che votano di 3 archi e 39 voti matematici. Cioè, tutta una ciurma che non me la voleva manco lo Padre Eterno, capisci? Non me la voleva manco lo Padre Eterno, dice. Ancora. Quella ciurma lì, le troie, 3 archi, le vecchie troie. È una volta che non vanno più le puttane. Spinella, queste che mi riporta là. C'ho tutto un giro lì intorno al paradise. Capisci? Tutta questa roba lì a me non me la leva nessuno. Poi ecco la comprovata fede leghista, sentiamola. Sono dovuto mettere con la Lega, perché se prendiamo la regione io con mano fermo, lo capisci, dall'opposizione, se il centrodestra avvia la regione, la Lega è il primo partito, io divento il punto di riferimento, ci vuol ragionarci con le cose, c'è lui. Eh sì, perché poi Francesco, noi facciamo tutti i grandi discorsi, le regionali, l'impatto sui partiti, poi a livello locale alla fine è pieno di storie così, poi questa telefonata è stata registrata però, no? Sì, ma più o meno sono cose che penso qualunque candidato che è minimamente dentro le questioni politiche o le dice in privato o le pensa. Il fatto di rimanere, questo è molto folklore, sì, ma il fatto, certo, che vinco, certo, divento punto di riferimento, cioè, sì, questo cinismo appartiene alla politica. Ovviamente questo è un candidato che ha più beat di un rapper, quindi vabbè, è folcloristico. Fammi dire però una cosa sugli impresentabili. Tra quei 13 impresentabili ci sono anche delle persone che sono semplicemente indagati. Questo è un paese che sulla carta dice che è un innocente, che un indagato è innocente fino a prova contraria, e a un giorno e mezzo dal voto lo definisce impresentabile, dando un giudizio, attenzione, che non è solamente politico, ma un giudizio morale. Io queste persone, 13 persone, qualcuna di queste 13 persone, mi auguro per loro sarà assolta dalle accuse da cui è indagato ed è stata definita impresentabile a un giorno e mezzo dal voto, da un momento che poteva anche, diciamo, costituire un momento molto importante per loro, un momento di grandissima esposizione e visibilità da un, sì, punto di vista mediatico dell'opinione pubblica. Ecco, sì, forse questa cosa degli impresentabili dovremmo gestirla un pochino meglio. Guarda, lo dico agli ascoltatori che ci scrivono: non c'è nessuna subdola campagna contro la Lega, lo sapete, abbiamo avuto ospite anche Matteo Salvini, ma figuriamoci, non c'è nessuna subdola campagna contro la Lega, era un audio, l'avete sentito, quasi ai limiti del comico, ai limiti del comico, e l'abbiamo detto, lo fanno tutti, poi molti non vengono registrati quando ci furono, ve li ricordate, no? Quella cena registrata del candidato del centrosinistra alla regione Campania, anche qua non si può nominare perché sennò andiamo dall'altra parte, che è l'attuale presidente, tanto l'avete capito, traffico. Prima di chiudere il capitolo politico, c'è forse da ripescare un paio di file audio, che sono dei file audio di due esponenti del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, e sono due file audio che fanno riferimento al momento nel quale si votava per il referendum costituzionale, quello per la riforma voluta da Matteo Renzi. Sentiamo Di Maio, Peter. Questa riforma non farà risparmiare neanche 50 milioni di euro all'anno, e ce lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, che è quella che fa i conti in questo paese. Quindi questa riforma è una truffa. E poi questi sono quelli che, se volevano veramente risparmiare soldi, potevano votare la nostra proposta in Parlamento, quella che tagliava lo stipendio a tutti i parlamentari e faceva risparmiare 90 milioni di euro con 3 ore di lavoro alla Camera e 3 ore di lavoro al Senato. Oh, tra l'altro era proprio da Fanpage quest'audio, nel quale Di Maio diceva: no, non bisogna tagliare i parlamentari, bisogna tagliare gli stipendi. E Danilo Toninelli. Noi votiamo no per difendere la sovranità popolare dei cittadini, perché gli dimezzano. Per che cosa? Per 90 centesimi. Renzi sta cercando di truffare i cittadini italiani per un caffè. È bellissimo, perché è la stessa argomentazione che viene utilizzata adesso dal no. Non è splendido. Parliamo di referendum più avanti, alle 8:35. Adesso invece ci occupiamo di Covid, appunto. Siamo con Fiorenzo Corti, che è vice segretario nazionale della Federazione dei Medici di Famiglia. Buongiorno Corti. Buongiorno. E benvenuto ai nostri microfoni. Allora, c'è una gran confusione intorno ai certificati medici, soprattutto per i figli, per quelli che devono andare a scuola. Allora, la parte pre-liceo non vi riguarda, Corti, perché riguarda più i pediatri, e però un quadro generale ce l'avete, perché poi invece la parte liceo, gli over 14, vi riguardano tutti e vi toccano tutti. Non solo, ci riguardano anche gli over 6, perché in alcuni casi i medici di famiglia assistono anche bambini dai 6 ai 14 anni. Ah, ecco, perfetto. E, allora, c'è una grande confusione. La domanda è molto semplice, guardi. Cosa devo fare se mio figlio ha il raffreddore? Allora, se mio figlio ha il raffreddore, direi, cosa devo fare se mio figlio ha dei sintomi per cui ritengo opportuno chiedere al pediatra, al medico di famiglia, se può andare a scuola oppure no. Allora, a questo punto il genitore ha un bambino con un problema. Cosa fa? Contatta il medico di famiglia o il pediatra. E il pediatra e il medico di famiglia possono sospettare una patologia riconducibile al Covid oppure no. Allora, se il medico sospetta un caso Covid, chiederà l'esecuzione di un tampone diagnostico. Allora, in questo caso, qualora ci fosse un esito positivo, sì, non il medico di famiglia, non il pediatra, ma il Dipartimento di Sanità Pubblica, il Dipartimento di Prevenzione della ASL, avviserà il referente scolastico. Sì. E l'alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e l'esito negativo almeno di 2 tamponi eseguiti a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Ok, quindi almeno 2 tamponi, che non sappiamo se le ASL sono in grado di processare con questa rapidità, Corti, e questo va detto. Cioè, questo dipende molto dalle organizzazioni. Grande tema. Qui ci troviamo in una situazione dove le disparità regionali sono molto, molto, ma non solo regionali, anche proprio legate alle singole ASL. Quindi ci saranno situazioni molto diseguali all'interno del paese e magari anche all'interno delle stesse scuole, perché ci sono bambini o ragazzi che fanno riferimento all'interno delle stesse regioni, certo. a due ASL differenti all'interno magari della stessa classe, quindi su questo c'è ci sarà un grande problema. Nel caso il pediatra o il medico di base decida che non serve il tampone, perché sì, i sintomi non li ritiene correlati a Covid, in quel caso cosa accade? Che cosa devo fare da padre? In quel caso allora bisogna valutare qual è la situazione regionale dove si vive, perché esistono le certificazioni di riammissione a scuola, non trattandosi di Covid, nemmeno di un sospetto di Covid, variano molto da regione a regione. Faccio un esempio molto semplice, che non posso senz'altro elencarli le diverse, le 20 e passa a realtà regionale. In Emilia Romagna la riammissione non è prevista, mentre nel Lazio sì. Questo... esiste proprio una disposizione regionale, l'ho letto anche direttamente, con la certificazione medica per la riammissione alla frequenza in Emilia Romagna, sì, è prevista da una legge regionale del 15, sì, dove non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica né autocertificazione alla famiglia. Nemmeno in questa fase, perché il Lazio per esempio l'ha riattivato in questa fase, cioè il Lazio non ce l'aveva più esattamente come l'Emilia Romagna, sì, perché da qualche anno non è più prevista. Però... Sì, ma era un problema di... Sì. Di semplificazioni, perché mi ricordo, io faccio questo lavoro da decenni ormai, e sembrava che ogni cosa dovesse essere certificata dal medico di famiglia, quindi rischio di passare tutto il giorno a fare certificazioni, sì, piuttosto che non a visitare le persone. Allora, per quanto riguarda i casi Covid, naturalmente la certificazione di riammissione serve. Se positiva, sì, verrà prodotta da parte della, se negativa, sì, da parte del medico di famiglia o del pediatra di famiglia. Sì. Per quanto riguarda invece certificazione di remissione per patologie assolutamente non riconducibili al Covid, non è prevista certificazione, salvo le regioni che questa certificazione l'hanno reintrodotta. Sì, fanno notare i presidi, però corti, che c'è un tema. Se uno studente si assenta da scuola e la scuola non sa il perché, potrebbe anche avere il virus, ma se nessuno lo visita o se non fa il tampone non si sa, sarebbe una riammissione non ottimale. Dice, non sarebbe il caso di ripristinare il certificato per tutti? Lei introduce un elemento che comunque non è previsto dalla normativa, mi fa dire delle cose che non sono di mia competenza, mi scusi. E per quanto riguarda poi il fatto che si debba fare tampone a tutti, anche qui entriamo in una situazione che prevede assolutamente l'intervento del legislatore, della professione. Sì, no, non della professione. Beh, non mi si sbilancia, Corti, non mi si sbilancia. È così. Grazie comunque, Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Federazione dei Medici di Famiglia, per essere stato con noi. Grazie a Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Qua ci si lamenta, gli ascoltatori dicono: insomma, ne avete dette della Lega facendo sentire il candidato, ne avete dette del Movimento 5 Stelle facendo sentire quegli audio di Di Maio e Toninelli. Non ve la siete presa col Partito Democratico, ma ne abbiamo parlato a mazzi del Partito Democratico. Ci sentiamo dopo il GR con la rassegna stampa e partiremo da una decisione francamente che ha dell'incredibile di un giudice. Lei è troppo disinvolta, sconto di pena per lo stupro, ce la racconta il Corriere della Sera, a tra un attimo. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.